Convocati di Carlo Genta. Ciao a tutti e buon Natale. Allora, tutti convocati è presente. Sia chiaro che abbiamo scelto una formula in coabitazione per questa puntata, quella di domani Santo Stefano, e sarà lo stesso per il primo dell'anno. So benissimo che la cronaca stringe, che si gioca a pallone, con un'idea secondo me meravigliosa. Possiamo anche parlarne con i miei due ospiti, che poi ospiti non sono perché sono padroni di casa. Però abbiamo scelto questa formula, vi raccontiamo delle storie, sia ben chiaro, non siamo in diretta oggi, non saremo in diretta domani, torneremo in diretta il 27 ovviamente per commentare tutte le vicende calcistiche, però mi sembra la formula ideale per tenerci compagnia. Per questo abbiamo pensato ad una sorta di coabitazione tra i due programmi sportivi di Radio 24, cioè Tutti Convocati e Olimpia di Dario Ricci, che saluto. Ciao Dario. Eccoci qua, grazie della convocazione, dall'Olimpo alle vie più prosaiche, alle più prosaiche convocazioni. Ed è con noi il maestro Stefano Tirelli, che è il tuo abituale compagno di viaggio, che ringrazio. Ciao Stefano. No, grazie a voi, io sono abbastanza emozionato perché sono in un mare di conoscenza dello sport e quindi sono veramente molto molto felice. Ci divertiamo. Dai, che cosa vogliamo parlare se non di sport? Allora, abbiamo individuato tre temi che mi appassionano molto. Quello di oggi è quello che non è riuscito propriamente bene a Ventura, la creazione di un gruppo vincente. Ma qui c'è un mondo da raccontare, e Stefano Tirelli di questo, su questo sa più docente, di tutto, no? Docente di tecniche complementari sportive alla Cattolica di Milano. Lo presento perché poi quest'anno è la mia spalla Olimpia, anzi spalla ma spesso anche attore protagonista. E Stefano, tra l'altro, oltre alle storie che abbiamo rivissuto a Olimpia, di cui sentiremo dei passaggi, dei contributi, c'è anche da ricordare che tu hai seguito, anche commentando per Rai Sport, tutta la preparazione al flop mondiale dell'Italia di Ventura, no? Analizzando sia approccio mentale sia approccio fisico a quello che è stato il fallimento, direi, storico della nostra nazionale. Ecco, direi che ad un occhio esperto come il tuo, e tra l'altro Carlo, ricordiamo pure che Stefano, vale la pena sottolinearlo, sta seguendo anche molti calciatori della nostra Serie A, devo dire, con un percorso di crescita, vedi Andrea Ranocchia, vedi De Sciglio, che direi è sotto gli occhi di tutti. Io sono storie estremamente interessanti, perché Ranocchia non poteva mettere piede a San Siro, De Sciglio sembrava un giocatore perduto, e invece secondo me è fortissimo. Probabilmente, ma lo sa meglio di tutti noi, aveva bisogno soltanto di un ambiente diverso. Comunque. Infatti, magari di un approccio diverso a certe problematiche. Ecco Stefano, ti chiediamo subito, perché poi è l'occasione che pure Carlo per toglierci un po' di curiosità pure noi. Direi che anche a occhio nudo si vedeva che quella nazionale scricchiolava sempre di più, no? Si avvicinava con sempre maggiore preoccupazione a quest'iceberg che sarebbe diventata la Svezia, e noi ahimè eravamo il Titanic. Ecco, è l'impressione che hai avuto anche tu, seguendola, studiandola, vedendo proprio l'approccio al lavoro di tutti i giorni in campo? Sai, oggi è il giorno di Natale, per cui il Natale cosa rappresenta? La luce? Ok. Ecco, quello che si è visto nel tempo, seguendo l'Italia dalla prima partita in poi, è che si stava spegnendo sempre più la luce. All'inizio c'è stato un momento di entusiasmo, secondo me anche eccessivo, rispetto a determinate prestazioni della nazionale. Dopodiché, già da prima della partita con la Spagna, l'ambiente, questo appunto lo posso dire perché ero spesso presente a Coverciano anche durante gli allenamenti, e devo dire che l'ambiente si stava lentamente lentamente spegnendo. Oltretutto non era solo uno spegnersi in termini di, come dire, convinzione, ma addirittura a supportare questa debacle che si stava lentamente materializzando c'era anche un discorso di pessimismo. Parole molto pesanti, perché se partiamo dal presupposto che le parole sono energia, ed è quello che la comunicazione è, energia, e allora se io uso parole come catastrofe, come disfatta, come tragedia, non posso che alimentare un certo tipo di ambiente che nello sport come nella vita ha bisogno sempre di un supporto propulsivo, banalmente parlando, possiamo dire positivo. Cioè te la tiri addosso, insomma. Insomma, quando cominci a mettere in circolo. Brutalizzando. Sì, perché quando, banalizzando, e vediamo se abbiamo capito, ma quando ti cominci a mettere in circolo queste parole, piano piano ti entrano in testa e, non è e devi avere degli strumenti per approcciarle in modo critico, costruttivo, no? Se no vai a letto con la scimmia. Sì, questo accade quando c'è un leader a capo di una federazione, a capo di un team, a capo di una società che prende in mano le redini. E in questo caso invece non c'era nessuno lì che comandava, c'era da una parte i calciatori che avevano una sorta di autoregolamentazione, c'era un mister, un commissario tecnico esautorato, e poi c'era un presidente e una federazione che erano in balia appunto della paura. Questa, la paura, chiaramente è un tipo di emozione che ci offusca la vista. Guarda, io in questa discussione estremamente colta faccio proprio quello del bar. La mia sensazione brutalmente è che l'Italia non è andata ai mondiali il giorno che ha preso tre schiaffi dalla Spagna in quella maniera. Da quel giorno è crollato tutto, lì siamo usciti dal mondiale, perché di fatto è così, lì Ventura è stato esautorato, quindi probabilmente una federazione forte avrebbe dovuto prendere il coraggio per il collo e cambiare commissario tecnico, come è stato fatto con la Croazia. Però croati sono un'altra storia e Stefano li conosce bene. Comunque giustamente, Carlo, come dicevi tu, il modo in cui è uscita perso con la Spagna, il modo. Perché il giorno dopo ricordo che le persone, i tassisti, i negozianti spagnoli mi dicevano: ma a noi dispiace vedere l'Italia in questo modo, ma cosa vi è successo? No, perché per noi, voi siete sempre stati maestri, certo, a livello di nazionale. Beh, ma poi fino al giugno precedente gli avevamo rifilati due, esatto, a Parigi, cioè insomma, su per giù con la stessa squadra, poi vai a vedere, anzi forse una squadra anche peggio messa come uomini, perché tra infortuni, assenti, no? Cioè tu mi vuoi dire, Stefano, voi mi volete convincere, e beh, il gioco è facile perché la penso come voi, che lì non è che si è persa solo la partita per 3-0, ma si è proprio spezzato un legame di fiducia tra la squadra e il tecnico. Tra squadra e tecnico, ma anche fiducia in se stessi, perché la squadra si è trovata completamente in balia per 90 minuti di una nazionale spagnola e non ha trovato un filo conduttore, una reazione, non c'è stato proprio nulla, e lì secondo me si è crepato tutto. Però ripeto, quando in una famiglia ad un certo punto i componenti iniziano ad andare in crisi, bisogna che il padre prenda in mano la situazione. È che qui non c'era nessun punto di riferimento, ormai tutto era, secondo me, io l'ho sentita così vivendola di partita in partita anche nelle trasferte, non c'era assolutamente speranza da parte degli attori protagonisti. Sì, qui è subito però una dinamica particolare, perché è chiaro che molti attori protagonisti erano all'ultimo ballo, quindi ci tenevano da morire, e tu mi dici non c'era un padre, non c'era un condottiero. Io il condottiero l'ho individuato nella vecchia guardia a partire da Buffon, sì. E anche questa è una dinamica strana, quando lo spogliatoio chiude fuori dalla porta l'allenatore e il gruppo storico dice va bene, adesso si fa così. La sensazione è che si sia trattato di una sorta di autogestione pilotata dal gruppo storico, con Ventura, a cui sono state affidate alcune scelte come non fortunate, come ad esempio quella di escludere Insigne. Cioè giochiamo così, giochiamo noi, poi alcuni giocatori li scegli tu. Questa è la sensazione che si è avuta al bar di sotto, ecco. Ci sono le dinamiche di un'orchestra che funzionano quando c'è armonia tra i vari componenti, tra i vari musicisti. Se uno dei musicisti inizia a suonare fuori ritmo, inizia a contaminare, a contagiare quello che sta vicino, e si crea una sorta di confusione e di assoluta mancanza armonica. Io, ad esempio, con i miei calciatori, con le squadre, a volte proprio con team, lavoro sempre sul presupposto dell'armonia. Questa è una magia, l'armonia. Nella nostra vita, come all'interno dello sport, quando abbiamo questo flusso, tutte le cose si accelerano in modo positivo, si concretizzano, si realizzano. Al contrario, proprio quando c'è un disfacimento, una disarmonia di questo tipo, tutto è la classica situazione, come si diceva prima, te la tiri addosso. In realtà, che cosa? Disarmonia crea disarmonia. Tutto diventa più difficile, quel palo sarebbe andato dentro probabilmente in un'altra maniera, quel tiro, quella situazione, quel rigore, ecco, tutti se in realtà quello che è proprio mancato è una lucidità, e ripeto, oggi è il giorno della luce, la luce si è spenta esattamente al Bernabeu. Tra l'altro ti chiedo ancora, Stefano, a me aveva colpito molto anche nelle tappe d'avvicinamento a questa disfatta un po' il body language di Ventura, no? So che tu lavori anche su questo aspetto, sulla postura, insomma, sguardo alto, attitudine. A me è sembrato un allenatore che aveva già ben chiaro non il risultato del campo, ma quello che sarebbe stata la sua parabola, no? Perché quando non hai la squadra con te, non arrivi a quei risultati. E quindi anche nel suo body language mi sembrava comunicare questa sfiducia, questo scetticismo, questo arroccarsi a difesa di se stesso, poi, no? Ecco, da quel punto di vista, come si può lavorare invece in una situazione di crisi su un atleta e anche un allenatore di alto livello per scardinare questi meccanismi difensivi che poi sono dei muri? Si lavora sia suggerendo all'atleta, o in questo caso all'allenatore, il modo di comunicare a livello di tono e poi anche a livello posturale. Io vi faccio un esempio. Ricordo che con Andrea Ranocchia, avendolo conosciuto non quest'estate ma due estati fa a Brunico, gli dissi: guarda, la prima cosa che ti consiglierei di fare appena entri in campo è di entrare col petto in fuori e guardando verso l'alto, perché io nelle prestazioni che ho potuto assistere delle tue ultime partite quando giocavi nell'Inter, perché parlavo di un passato in quanto era ormai tempo che lui non era più titolare, vedevo questo atteggiamento cifotico, quindi un atteggiamento ricurvo, e delle parole scandite con un tremolio. Quindi questo, per esempio, in Ventura si è evidenziato in una condizione in realtà di un baritono, un tono sempre più profondo, nelle immagini una postura sempre più chiusa, ma soprattutto mai guardando in faccia i giornalisti che gli facevano le domande, era quasi sfuggente. E in più io credo che non si debba mai mettere, quando si ha una responsabilità di quel tipo, per prima cosa di fronte l'orgoglio. L'orgoglio in quei casi diventa deleterio, mentre ad esempio in un atleta l'orgoglio può essere una fonte di rivincita, di rivalsa da cui attingere. Per quanto riguarda una responsabilità come quella dell'allenatore di una nazionale, no, prima ci deve essere l'interesse nazionale e l'esclusione di Insigne. Un emblema, poi scusate se prendo troppo tempo, ma il discorso no, abbiamo tutto quello che vuoi. No, una cosa emblematica voglio raccontarvi. Il giorno prima del ritorno a San Siro, quando gli hanno chiesto allora cambierà modulo, lui ha detto: io cambieremo modulo e speriamo che questo ci porti a qualcosa di buono. Io mi immagino un Mourinho, mi immagino un altro che non direbbe mai "e speriamo che ci porti qualcosa di buono", perché se io spero che qualcosa di etereo porti a me della positività, io devo essere il primo a dire "e ce la faremo e saremo in grado di combattere fino all'ultimo secondo". Tu puoi anche non dire "sono sicuro che ce la faremo", potrei dire, ma devi dire come allenatore "noi fino all'ultimo secondo saremo dei guerrieri". Straordinaria, sì. Pure la logistica, adesso, perché no. Poi, ma insomma, la Svezia che fa la conferenza stampa a San Siro e l'Italia che ospite, per carità, del Suning Center a Piano Gentile, tutti col pulmino a Piano, tre ore lì. Ma c'hai San Siro qui. Ma insomma, io da questi piccoli segni ho capito che quel gol non l'avremmo fatto. Stiamo centrando sempre di più l'obiettivo, cioè costruzione di un gruppo vincente. Adesso tra poco ci fermiamo per il traffico, che vale anche il giorno di Natale ovviamente, anche se sono tutti a casa magna. Infatti, quindi ci sarà una macchina in giro, insomma. No, però diteci pure la data. A me vengono in mente mille cose da chiedere a Stefano Tirelli, cosa che farò prontamente, perché insomma io mi domando, io non ho mai visto una situazione come quella della nazionale italiana da che seguo lo sport, ho quasi 50 anni, quindi non ho mai visto una situazione in cui un allenatore era ostaggio di un gruppo. Stefano dice bene, no? La postura, le parole, tutte queste cose contano, però io mi provo a mettermi nei panni anche di un allenatore, un commissario tecnico, un dirigente, no? Di un'azienda che sa che parla al vento, cioè che sa che tanto quelli lo chiudono fuori dalla porta. Quindi io posso solo immaginare la situazione in cui si è trovato Ventura dal Bernabeu, come dicevamo prima, in poi fino a quella macchina in cui si è, e anche questo è un argomento interessante, in cui non ha parlato né dopo partita, non è ancora chiaro se gli è stato chiesto di non parlare, è stato mandato Buffon, oppure se lui ha deciso di non parlare, questo non l'ho mai capito. Fermiamoci un attimo per il traffico, poi continuiamo. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta. Tutti convocati. Riavvolgiamo il nastro, ovviamente onnipresenti è Gianmarco Ferronato in regia e Giorgio De Luca il nostro autore. In queste puntate festive in cui lo dichiariamo, siamo fuori dalla cronaca, non siamo in diretta, ci torneremo il 27, ci sarà Giovanni Capuano, però è anche l'occasione per affrontare un sacco di temi. Io mi sto divertendo un sacco, ringrazio Dario Ricci. Ciao, puntate ciao. Costruite insieme a Olimpia, in a quattro mani, anzi sei, perché c'è Stefano Tirelli che di nuovo ringrazio, che sta facendo una lezione magistrale di oggi si parla di costruzione del gruppo vincente. Noi stiamo parlando di un gruppo che vincente non lo è stato, come quello della nazionale italiana. Dunque riavvolgo il nastro e torno a quanto stavo dicendo prima. Mi metto nei panni di Ventura, abbiamo parlato di body language, di una dinamica mai vista in un gruppo importante come la nazionale italiana di calcio. Addirittura ci ha portato, secondo me, ma questa è una digressione, a sopravvalutare quasi il valore della Spagna, perché Asensio sembrava Maradona, in realtà riserva del Real Madrid, quindi giocatori giovani di grande esperienza, di grande talento, però sembravano 11 Maradona, cosa che secondo me non era è stata ingigantita dai nostri limiti e dai nostri difetti. Però torna bomba, un commissario tecnico che dice speriamo che il cambio di modulo ci porti a qualcosa di buono, cambio di modulo che NDR, nota di redazione, ti è stato imposto da quegli altri, dai giocatori. Ecco, un uomo di anche di quell'età, un serissimo professionista, merita tutto il rispetto, la stima, bla bla bla, Ventura, però tu sai che parli e parli al vento, cioè tanto non comandi tu, e questa è una dinamica che io non avevo mai visto, Stefano. Sai Carlo, tu hai usato una parola adesso, esperienza. Hai parlando no, dei giocatori della Spagna. Qual è stato secondo me il problema? È che Ventura non aveva esperienza in materia. Mm-hmm. Se tu hai una prima occasione che ti viene proposta e ad un certo punto sei in un momento di crisi, torno a quello che dicevo prima, lì devi avere il supporto di qualcuno. E in questo caso in teoria sarebbe stato dato da un supporto della federazione. Ventura, e io ci tengo a dirlo, non sto facendo una critica negativa sull'uomo, assolutamente, non lo conosco neanche, certo, e mai mi permetterei, perché non sono nessuno, ma sto facendo un'analisi critica su quello che è il concetto di comunicazione, di leadership all'interno del cosiddetto team building. Purtroppo questi elementi non c'erano, e quando un Ventura si trova in crisi perché la situazione gli è sfuggita di mano, lui non ha l'esperienza che può portarlo a pensare a ciò che avrebbe fatto in altra situazione, perché semplicemente perché il passato di una nazionale o di una grande squadra, con tutto rispetto parlando per i team che lui ha allenato, non c'è mai stata. Qua forse Stefano, Carlo, c'è un altro tema del rimballo evidente, ma è stata proprio il momento di debolezza della federazione, no? Perché se tu sei Conte e arrivi in nazionale nel modo rocambolesco in cui è arrivato, però arrivi forte di 3 scudetti vinti con una delle squadre più prestigiose, eccetera eccetera, ti siedi su quella panchina come sergente di ferro, cominci in prima persona a fare le battaglie con la Lega Calcio per gli stage, eccetera eccetera, riesci a avere una tua tridimensionalità, no? A essere punto di riferimento centrale per un movimento, per quel segmento di movimento. Se tu invece sei Ventura, che ha allenato le squadre di livello medio-basso, che ha allenato, devi avere necessariamente una struttura forte, un presidente forte che metà di quella battaglia o anche i tre quarti la combatte per te, che sì, deve riuscire a mettere i sacchi di sabbia. È quello forse che è mancato anche a questo allenatore, no? Guarda, io aggiungo soltanto che mi vengono in mente, per associazione di immagini, anche società deboli di club che non sono riusciti a proteggere dal vento l'allenatore, ultimo esempio quello del Milan, ma possiamo andare all'Inter alla prima Inter di Moratti, possiamo andare a su o giù quanto vuoi, ce ne sono diversi di esempi. e la Federcalcio non era una società forte. La seconda associazione di immagini, allora, vinto un mondiale, lasciamo stare Vittorio Pozzo, Buonanima ed Enzo Berzot, Buonanima, che erano comunque due comandanti e due condottieri. Poi si è vinto un mondiale con Marcello Lippi, un altro condottiero, e si è fatto bene, relativamente bene, con Antonio Conte, altro condottiero. Mi viene quasi da pensare che siamo un popolo che ha bisogno di una guida. Sì, oddio, frase che dagli echi sinistri. Perché, agli echi sinistri, per stiamo parlando di sport, però, mega di politica. Anzi, però ci siamo capiti, insomma, è chiaro che José Mourinho si siederà mai su quella panchina del Portogallo se Pep Guardiola vorrà. Quello dell'Italia, dell'Italia. Ah, ma magari, ecco, tra l'altro Stefano, ma scusate, è un altro tema, ma il nostro calcio... Ma perché non può avere un allenatore straniero? No, perché no. È incredibile. Perché non cosa. Può avere un allenatore part time? No, ma no, perché? Ma perché Allegri non potrebbe fare. Non ho una risposta. Mi spiace. Battaglia persa che conduco da anni. Cioè. Io devo dire che ho una mia mentalità universalista, neanche posso dirvi internazionale nel senso più ampio del termine. Per me non esistono adesso i confini. Parliamo perché... Allora, se io penso, e infatti ho riflettuto su questo aspetto, perché l'Italia non può avere un allenatore? Perché? Perché sappiamo che ci sarebbe una rivoluzione da almeno una metà, almeno, no? Dei tifosi, ma non solo dei tifosi di calcio, ovviamente degli italiani. Però questo è sintomo di limite, è sintomo di limite culturale, secondo me, ed è sintomo anche di un limite di prospettive, di lungimiranza, di progettualità che si deve aprire ad ampio raggio. Questo lo vediamo materialmente, ad esempio, con la mancanza strutturale di stadi. Io ho avuto così il piacere di frequentare gli stadi inglesi per tanti anni e devo dire che non solo inglesi ma tutti europei, sì. Una volta si diceva, sai, è uno stadio all'inglese, uh-huh. Da ormai qualche anno si dovrebbe dire è uno stadio all'italiana, perché l'eccezione è l'Italia. Assolutamente. Sì, sì, allora quando tu devi definire Varsavia, tanto per dire mamma mia, certo, uno stadio di Varsavia è una meraviglia. Cioè se tu devi definire ad esempio uno stadio scadente, sei... secondo me puoi dire è uno stadio all'italiana. Certo, ok, certo. Con due eccezioni, secondo sì, me. Sì, sì, sì, sì. Allora in questo senso credo che purtroppo la preparazione culturale, la preparazione, ma anche della cultura sportiva in Italia sia ancora purtroppo lontana. Ecco, senti, ma tu che proprio hai lavorato con tantissimi grandi allenatori, in primis Mourinho ai tempi del primo Chelsea, no? Ecco, veramente tre doti, tre caratteristiche che da cui un CT per ripartire con questa Italia non può prescindere. Credibilità, grinta, perché l'allenatore di un team ce l'hai a disposizione tutto l'anno, ma quei pochi giorni che tu hai a disposizione per infondere agli atleti un po' di energia, tu devi avere questa grinta, questa dote proprio che Conte, per cui Conte era maestro, per esempio. E poi un'altra cosa, devi essere, secondo me, preparato a una cultura internazionale, cioè devi essere aperto di mente. E se parliamo di nazionale, parliamo di europei, mondiali, tutto ciò con contesto. Se tu hai allenato solo squadre di medio livello all'interno di un territorio che è quello nazionale, non hai neanche la preparazione sui viaggi a lungo termine, su come sono i rapporti con i giornalisti, gli altri. Io ricordo che alla domanda di un giornalista di una delle ultime partite, Ventura ha risposto in modo molto seccato ad una domanda normalissima. Questo non si può fare, non si può fare a livello, secondo me, in genere, perché ognuno ha il diritto di parlare, di fare delle domande lecite, ma soprattutto a livello internazionale. Quindi sono questi già perché noi poi siamo ancora il paese dei silenzi stampa, no? Siamo no, quelli là che non li fa più nessuno, perché sono una cosa ridicola. Forse nessuno l'ha mai fatti nell'NBA, se lo fai ti multano perché... ti lasciano a casa un po' di tempo perché così ci pensi bene. Da noi ancora funziona che da noi abbiamo, ragazzi, scusate, sapete quanto io seguo con affetto il Napoli e tutto quanto, ma ho visto delle conferenze stampa saltate da Sarri, forse si dice per scaramanzia. Vabbè, adesso ok, no, quindi abbiamo bisogno di Giulio Cesare. Siamo un popolo che ha bisogno di Giulio Cesare. Sì, in realtà quando già un coriolano andrebbe bene. No, vi faccio un esempio, anche prendendo sempre lo stadio come punto di riferimento. Io ho avuto il piacere, l'onore, la gioia di vedere, di vivere sia il Wembley vecchio, l'Empire Wembley Stadium, e poi di lavorare dentro al Wembley, con il nuovo Wembley, con Fabio Capello, con la nazionale inglese. Allora lì hanno avuto il coraggio di abbattere un monumento nazionale che non aveva più un senso in termini funzionali. Avevano due scelte: o lo manteniamo e lo ricreiamo e lo facciamo diventare qualcos'altro, o noi abbiamo bisogno di un nuovo stadio. Io non dico che sia giusto o sia sbagliato, credo che però ci sia lì il coraggio di assumersi delle responsabilità. In Italia io credo che questo sia un elemento abbastanza raro, sia a livello personale, sociale, politico, vogliamo parlare di tanti altri aspetti, però prendersi delle responsabilità e dire questo è una decisione, nessuno lo vuol fare, quindi cosa abbiamo bisogno di solito? Di un punto di riferimento che si prenda, così se sbaglia lui paga, è così, solo lui, è così. Ma non viene niente Fabio Capello declinato in tutte le salse, da cittadina nazionale, da presidente federale, da quello che volete, però è un uomo di quel carisma lì che va lì e dice si fa così perché lo decido io. È chiaro che devi avere i poteri, devi essere supportato da norme e regolamenti, cosa che in Italia latita, basta leggere insomma la recente storia di Lega e Federcalcio. Si parlava di Mourinho, l'Inter vincente è stata vincente anche forse soprattutto grazie al fatto che c'era un leader come Mourinho che si prendeva tutte le responsabilità, organizzava tutto, era il manager e si esponeva davanti alla stampa, eccetera eccetera eccetera. Dobbiamo fermarci perché anche oggi c'è una pausa, poi torniamo a parlare, anche perché dalla discussione vengono mille domande. Allora un'altra sarà e ora me la appunto, ma un commissario tecnico straniero, parliamo, allarghiamo pure il discorso a tutte le nazionali che volete, sport di squadra che in Italia sono in crisi. Insomma, non sta bene dirlo a Natale, ma a Mourinho che gli frega, che gli impippa delle critiche dei giornalisti italiani. Lui è là nell'Empireo, viene qui ad allenare, mettiamo part time, fa il suo lavoro, lo criticano. Secondo voi non gli scivola addosso? Seconda cosa che diceva Stefano Tirelli, per uno così, ma questo è evidente, Stefano Tirelli ce lo può insegnare, per uno così un giocatore si butta nel fuoco? Certo. E quindi riflettete, meditate, gente, meditate anche il giorno di Natale. Torniamo subito. Mancherebbero due minuti, però mi hanno dato tre minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Tutti convocati. Torniamo con Tutti Convocati, le storie di Tutti Convocati, perché ripeto, oggi siamo registrati, dichiariamo candidamente, vi teniamo compagnia con grande piacere, in coabitazione, in produzione congiunta con Olimpia, altro programma sportivo di Radio 24, con Dario Ricci che è con me e con Stefano Tirelli che abbiamo il piacere di avere ospite. Siamo partiti da un punto, costruzione di un gruppo vincente, abbiamo chiacchierato per mezz'ora di un gruppo perdente, ma è bello così e vogliamo andare avanti. Poi parliamo anche di gruppi vincenti perché ce ne sono, però per fortuna nello sport italiano ormai sono pochi. Però si diceva, considerazioni su commissario tecnico, su tutto quello che è stato. Allora faccio l'esempio di Mourinho e ripeto la domanda a voi signori: a Mourinho, ipotesi, commissario tecnico part-time che scende dall'Olimpo e viene ad allenare la nazionale italiana, non mancano le strutture, non manca la tecnologia, è una sciocchezza dire che uno non possa fare commissario tecnico part-time, l'ha fatto Ettore Messina dall'altra parte dell'America, ha un team, può vedere tutto, può conoscere i giocatori, può affidarsi ad uno staff, quindi non venitemi a raccontare che deve andare negli stadi a stringere le mani, perché allora ci arrendiamo tutti. Un allenatore top non te lo puoi permettere perché non verrà mai a seppellirsi in un nazionale economicamente e professionalmente, vale per Mourinho, Ancelotti, Allegri, chi volete voi. E poi a uno così che gli importa in fondo delle critiche, del malumore, dei tormentoni dei media italiani? Ma tra l'altro, correggetemi se sbaglio, ma può essere pure che ci vengano incontro i calendari internazionali, perché se effettivamente il calcio dovesse poi adottare quel modello simil basket, anche se adesso il basket l'ha abbiurato in modo illogico, eccetera, eccetera, inconsapevole, ma se dovesse adottare quel modello di calendario per cui l'attività delle nazionali verrebbe concentrata nei mesi estivi o tardo primaverili, ecco lì che la soluzione di un CT sia straniero sia anche part time, perché noi abbiamo ancora il fatto che se ci va Allegri o ci va Spalletti magari chiama solo quelli dell'Inter o non li chiama per non farsi far male. Secondo me è una visione miope tutta italiana, ma se veramente anche io direi bullshit, ma a Natale non si può. Cioè magari ci vengono incontro anche i calendari che potrebbero aiutare una soluzione part time, così insomma. No Stefano, sì, ci vuole sempre quella dote che è un elemento precursore di tutte le grandi imprese, che è il coraggio. Io non so se a livello attuale chi comanderà, chi sarà al vertice della federazione, potrà avere il coraggio di decidere di proporre quantomeno la guida della nazionale italiana ad uno straniero. Sicuramente i leader come Mourinho sono quelli che catalizzano a sé veramente tutte le forze. Io ricordo ad esempio nel periodo del Chelsea, quando Mourinho fu licenziato a favore di Avram Grant, Essien, che seguivo in quel periodo a livello personale, ci mise 3 mesi ad elaborare il lutto. Cioè ci sono giocatori che sono talmente attaccati a queste figure che hanno una sorta di dipendenza che è molto positiva quando le cose vanno bene, e quindi, come si diceva prima, ci si butta nel fuoco per quest'uomo, in questo caso per Mourinho. Il problema è poi quando viene meno questa leadership e c'è una sorta veramente di elaborazione. Il concetto qual è? È che per tutti noi l'indice di quanto noi siamo forti si evince dal fatto che il punto di forza, il punto di felicità non deve essere al di fuori di noi. Quindi, perché se mi viene a mancare, io crollo. La forza vera, che è quella che suggerisco sempre agli atleti, è dentro, ma non è una banalità, nel senso che è il tuo punto di equilibrio. E in quel senso tu dici: a me che importa della critica dei giornalisti? Io so quanto valgo, ho una stima che non è né sovrastima né sottostima. Ho una stima, un valore che mi do indipendentemente dall'esterno. Vale per i giocatori, dici? Vale per giocatori, varrebbe anche per gli allenatori e varrebbe secondo me un pochino per tutti noi. Ieri ho sentito l'intervista di Mattia De Sciglio, e mi ha fatto piacere quando lui ha detto in modo molto semplice, ha detto: a me di quello che dice la gente non importa. Questo vuol dire che ha fatto un salto. Certo. Perché quando io l'ho conosciuto all'inizio, invece ciò che diceva la gente era importante, era molto importante, forse fin troppo. Adesso invece ha fatto un salto, quindi vuol dire che è riuscito a trovare dentro di sé questa forza, questo valore di stima, che non, ripeto, non deve essere né troppo e né troppo poco. No, ma poi sai, alla fine parlavamo di Mourinho, c'è gente che il lutto non l'ha elaborato mai. Parlate con Marco Materazzi, cioè l'avrei fatto, ci avrei parlato. Cioè, lui passava davanti allo stanzino di Benitez cantando José Mourinho, José Mourinho. Era stalking quello era stalking. Era stalking finché vuoi, però Materazzi era Materazzi, insomma è un amore che Mourinho non è... Mourinho era Mourinho, l'Inter del triplete era l'Inter del triplete, Eto'o, e Stefano lo conosce bene, possiamo andare avanti dei secoli, però è uno che ti fa breccia. Mi viene in mente però... A proposito invece di nazionali vincenti, una cosa che mi ha detto molte volte mio amico Andrea Zorzi, che saluto e non lo vedo da tempo, anzi Andrea fatti sentire se ci stai ascoltando. Vienici a trovare, perché vienici a trovare, che ci manchi. Nostro amico, perché noi quest'estate è venuto a mangiare gli arrosticini con noi in Abruzzo, Andrea Zorzi. Io è venuto a trovarmi. Quest'estate non ci vieni a trovare pure il giorno. Io sono sempre qua incatenato. No, quest'estate mi sa che vieni giù a Ripateatina, la terra di Rocky Marciano. Ma già, perché tanto il mondiale. Ci abbiamo 8 stasera. Basta, che male. Allora, Andrea Zotti mi ha sempre fatto questo discorso: con Velasco si era creato un clima da setta. Io credo che questo sia accaduto in molti team, in molti sport. Per lui ti butti nel fuoco, lui è il capopopolo. Però siamo una setta, la setta è destinata a durare un periodo limitato di tempo, perché sennò poi lo appendi per il collo. Ok. Certo. Però in quella settarismo lì tu sei un uomo in missione, un giocatore in missione, una squadra in missione. Sbaglio, Stefano? Bravissimo, perché quando tu decidi di fare il calciatore in questo caso o il pallavolista nel caso, diciamo, di questo di Zorzi e di Velasco, tu devi sapere che la tua carriera è di intensità. O lo accetti o se no fai un altro lavoro. Questo, quello che dico a tutti gli atleti è: o stai nel gioco e tu sai che questo gioco consuma, è di massima intensità. La massima intensità vuol dire che tu all'interno del team, quindi fatto dalle diverse figure, dai giocatori all'allenatore, a tutte le persone che stanno intorno come staff eccetera eccetera, devi essere, non uso la parola setta, ma devi essere veramente una mente unica. Questo c'è un modo di dire buddista che è tante menti, una mente sola. Ed è quello, o ci stai a questa regola oppure non puoi creare un modello vincente. Prima si parlava di Eto'o, ricordo nelle mie esperienze ad esempio con squadre africane anche in Coppa d'Africa. Io per esempio ho fatto due Coppe d'Africa col Ghana e ricordo che in una semifinale perdemmo 1-0 con un gol di Eto'o. La differenza qual era? È che noi avevamo la squadra molto più forte, c'erano dei giocatori eccezionali, ma loro avevano una compattezza e un credere nell'allenatore che era incredibile. Tant'è che Eto'o, alla fine della partita, fuori dallo spogliatoio, stavo uscendo, è venuto lì, mi ha dato una pacca e mi ha detto: guarda, so che voi eravate i migliori, mi dispiace, chiaramente mentiva, però siamo andati avanti noi. È proprio questo, è quando tu crei, quando senti che c'è una enfasi, una empatia totale, hai una forza che è il doppio, a volte il triplo. Sì, però parliamo di leadership anche qui, perché è vero, una mente, tante menti, una mente, ma ci vuole Dalai Lama, sì, ci vuole il Pontefice Massimo. Infatti ho usato il nome, infatti ho usato il termine mente, non cervello, sono due cose diverse, e secondo certo, me. Però ci vuole il gran sacerdote del tempio, sì, sì. Cioè, che sia Eto'o come giocatore, che sia Mourinho come allenatore, sì, che sia Velasco come allenatore, ci vuole un giocatore di personalità, però ci vuole il capo. Ma poi tra l'altro ci sono allenatori che con diversi strumenti ti rendono una cosa difficilissima come una cosa invece molto leggera, no? Faccio la gestione dello stress, no? Già solo riuscire a leggere lo stress di una grande partita come un cambiamento e non come necessariamente, no Stefano, tu mi insegni, come un cambiamento negativo, ecco lì che sulla mente di un atleta che va là per inseguire la performance massima è una svolta. Mourinho è così, Mourinho è quello che al Camp Nou si entra prima della squadra, certo, si prende 100.000 fischi, intanto gli altri si riscaldano, si fa male proprio, se non sbaglio, Eto'o, Kivu si fa all'esterno. Sta lì con Kivu che fa riscaldamento, io me la ricordo, con Kivu che fa riscaldamento, che gioca col caschetto perché si è spaccato la testa due pochi mesi prima. Mourinho... E lui sta lì con Kivu a prendersi qualunque cosa piovesse giù dal Camp Nou. Sì. Mourinho possiede una dote, una qualità incredibile che Carl Gustav Jung diceva che è essere una delle più grandi forze interiori, che è il senso dell'ironia. L'ironia distrugge, smaterializza le paure. Ricordo questo Monaco de Tibet ricordo Quello questo, Monaco questo... De Tibet, tra... il Bayern Monaco Gran Premio di Monaco tra i tanti esempi ricordo questo quarti di finale Chelsea-Valencia, si stava per partire per Valencia e noi facciamo un lavoro incredibile secondo me di staff recuperando un collaterale mediale di Michael Essien che si era lesionato e che per Mourinho era un elemento fondamentale. Allora facciamo un lavoro lunghissimo di recupero sia a livello fisico, fisioterapico, energetico, quindi punti energetici, mental training, visualizzazioni, tutto questo crea una sorta di miracolo sportivo, in questo caso agonistico, eccetera. Allora tutti molto contenti, molto tesi anche. Mi ricordo quello che mi disse Michael Essien, che quando stava per salire sugli scalini dell'aereo, Mourinho lo prende, lo guarda e fa: ma tu vieni là per fare il turista o vieni per giocare? La risposta cosa fu? Se andate a vedere, un 2-0 all'ultimo minuto, anzi a tempo scaduto, di Michael Essien che si invola sulla fascia destra e tira fa un bellissimo gol sul primo palo che permette al Chelsea, permise a noi all'ultimo minuto, anzi da tempo, di accedere alle semifinali. Poi l'ha pagata al Milan, però, perché quando è venuto al Milan sembrava morto, dai. Tirelli non c'era, bastava Tirelli. Purtroppo devo dire che ma stiamo parlando, stiamo parlando tra amici, sia mi permetto di parlare con voi. Ampia, però, e poi, no, devo dire che fu per me un po' un dispiacere il fatto che dopo un'esperienza bellissima con Michael ci fu un momento in cui, così, rispettando anche la decisione, smise, cioè perse quella voglia di migliorarsi e decise a quel punto, cioè, ecco, il mental training piuttosto che altre cose non servono più. Dopodiché io infatti non lo vidi più. Quando arrivò a Milano non lo vidi neanche, cioè non andai neanche a salutarlo perché non eravamo più in contatto. E questa cosa, devo dirvi la verità, mi è spiaciuta molto, perché io penso che al di là delle situazioni professionali sia molto molto importante sempre anche il rispetto umano e le relazioni umane. Ci mancherebbe altro. No, ma poi è interessante anche l'approccio che puoi avere, che prima parlavamo di grandi partite, di partite senza domani. Io credo che i grandi giocatori e i grandi allenatori vivano per quel momento lì. Ed è, non è una cosa facile, perché la pressione ti può schiacciare, la paura agonistica ti può schiacciare. Per esempio, non so se avete avuto la stessa sensazione, quando la Juventus è scesa da quel pullman nell'ultima finale di Champions League, io ho avuto, ma Stefano me lo può insegnare o confermare o smentire, io ho avuto la sensazione che quelle facce di cera, quel linguaggio del corpo trasmettesse una enorme paura, mentre ho visto scendere quelle del Real Madrid, sembravano più o meno in gita in America all'inizio della stagione. Ti dirò stessa cosa all'ingresso in campo, no? All'ingresso in campo, fortunatamente, oddio, da Juventino sfortunatamente, ma insomma abbiamo raccontato pure questa partita. Entra in campo Real Madrid, bello carico, Cristiano Ronaldo, mentre si riscalda, incita i tifosi che gli rispondono immediatamente, li vedevi proprio col sangue agli occhi. La Juventus entra in silenzio, con la curva che quasi miagola, riesce a miagolare un coro, qualcosa di supporto, ma insomma c'era veramente la tanta paura, differenza. Sì, tanta differenza. Il livello di ansia è sicuramente fondamentale per poter produrre a livello fisiologico, parlo anche proprio a livello ormonale, le migliori performance. Il problema è che quando il livello di ansia eccede fa esattamente il risultato contrario. Cioè, come si combatte, scusa, con gli ansiolitici? No, dimmi tu. Uno degli ansiolitici più naturali e più belli e importanti è quello di cui parlavo prima, l'ironia. Adesso non sto scherzando, ma guardate che io spesso uso questo elemento di aiuto con gli atleti. Quando vogliamo esorcizzare degli spettri, non possiamo andare a parlare troppo seriamente, dobbiamo ironizzare. Quella è una potenza incredibile. Aspetta un attimo, ci fermiamo per il traffico, torniamo subito e chiudiamo questa chiacchierata. Non perdete il filo, stiamo parlando dell'ironia come l'esorcismo verso l'ansia da prestazione nei confronti delle grandi partite, verso le grandi partite. Traffico. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta. Per me il desiderio è qualcosa che si vuole ricevere o comprare. Per me l'amore è quando vuoi bene ad una persona o ad una cosa e fai il possibile per stare con quella cosa o qualcuno. La paura per me è un sentimento legato anche all'amore in un certo senso, perché noi abbiamo paura quando non vogliamo perdere qualcosa. Amore, paura, desiderio. Tre parole che punteggiano le giornate dei più piccoli. Tre parole che scopriremo meglio con l'aiuto dei più grandi. Torna a terra in vista con Le emozioni spiegate a mio figlio. Scienza e poesia, storie e mondo animale, sentimenti ed esperimenti. Telmo Pievani e Federico Taddia vi aspettano il 25 e il 26 dicembre e il 1 gennaio alle 9. Terra in vista, per delle feste ricche di emozioni. Tutti convocati. con Dario Riccio e Stefano Tirelli. Stiamo facendo questa discussione, creazione di gruppo vincente. Siamo partiti dal gruppo perdente nazionale azzurra. Adesso chiudiamo il discorso. Stiamo andando verso il gruppo vincente, verso le grandi partite. Stefano diceva: per combattere l'ansia da grande partita, finale mondiale, ci sono giocatori che ne hanno giocate mille. Ma a me poi viene in mente, le hai viste anche tu, no, Dario? Sì, le finali olimpiche dei 100 metri. La faccia di Asafa Powell, no? Esatto, tu quando lo Usain Bolt, Usain Bolt, ironia, come diceva Stefano Tirelli, ma questo ti viene spontaneo. Poi un altro aspetto di enorme interesse, ad esempio, sei un giocatore, sei Mourinho, sei Kibo, sei l'atleta che non è quello di casa, finale di 100 metri, quei fischi, quella astio da parte. Senti questo episodio che ci ha raccontato Sandro Campagna Olimpia, tra l'altro ci trovate ancora tutte le domeniche alle 21. Sandro Campagna, finale olimpica Barcellona 92, sette bello contro la Spagna, 20.000 in tribuna, uh-huh. Juan Carlos in tribuna, che spagnoli che sentono la pressione di dover vincere per forza quell'oro che avrebbe chiuso insieme alla maratona, uh-huh, quell'Olimpiade. E cominciano nel sottopassaggio a dire: ah, italiani, pizza, mandolino, pasta, spaghetti. E intanto i nostri, il sette bello preparato da Rudic in modo ferreo, durissimo anche mentalmente, cominciano a ridersela. E Campagna, i due o tre leader, dicono: ragazzi, calmi, che a questi gli facciamo un mazzo così. E Campagna ci ha detto: dice, guardate, state tranquilli che quella partita è finita dopo 5-6 supplementari, vado a memoria. Ma se fosse durata tutta la notte, la vincevamo noi. Tra l'altro è stato uno dei momenti personalmente più emozionanti della mia vita a livello sportivo. Io ricordo quella partita come se fosse oggi, come ad esempio la vittoria a Lillehammer della nostra squadra di sci di fondo. Cioè, ci sono quei momenti che ti trasmettono un'enfasi, un'energia che io ricorderò per sempre. Per cui devo dire che anche in questo caso... Ma l'ambiente ostile è una carica? Cioè, ci sono alcuni che se ne sono intimoriti, ce ne sono altri che invece si caricano come i missili. Allora, ci sono atleti, ad esempio Ibrahimovic è uno di quelli che fa dei fischi, degli insulti contro una forza propulsiva. Cioè lui, più lo insultano e più lui rende, ed è una dote naturale. Per quanto riguarda gli atleti che non hanno questa dote insita in modo naturale, io personalmente li alleno. Ad esempio nella mia, si chiama Energy Mind Room, lo spazio che io ho nel mio studio, ho fatto un lavoro particolare col suono, con delle immagini, quindi ho un aspetto audio-video, e alleno anche gli atleti ai fischi, quindi riproduco con un volume molto alto quelle che sono le condizioni ambientali che andrai a percepire. Ovviamente non è la stessa cosa, però quantomeno la stai allenando. Tu non potrai mai sapere, no? Cioè, allora, non è una partita, ma è allenamento. È chiaro, però almeno l'allenamento è propedeutico alla partita. Chiaro. Ma se non è neanche l'allenamento... Ma è una dote naturale questa oppure qualcosa che ti arriva dall'allenamento o dall'esperienza? Per alcuni questa dote arriva dalle difficoltà che hanno vissuto all'inizio, nei primi anni della vita. Cioè, io ho notato che molti degli atleti che ho conosciuto, che hanno avuto nell'infanzia, nell'adolescenza, una vita difficile, molti di questi hanno questa carica. Ibra, per esempio. Fortissima. Io ne ho conosciuti alcuni e lì non dovevo neanche io lavorare troppo, diciamo. No, ma io sono uno di quelli, però. Io li capisco molto, perché se posso fare una piccola... io sono nato in una zona di Milano abbastanza complessa, che è Gratosoglio, e quindi diciamo che i tempi degli anni 70 era una zona veramente difficile e abbiamo dovuto lottare nella strada. Quando dico lottare, era perché poi arrivavo da una famiglia medio-bassa da un punto di vista economico, eccetera eccetera, e quindi ho dovuto veramente lottare. Questa cosa per me è stato un dono, in realtà. L'ho capita strada facendo, quando più o meno avevo 35 anni un giorno, ho capito che quella dote, quella mia esperienza è stata una fortuna, in realtà, perché mi ha concesso di prendere da questa rabbia, da questa sana cattiveria, un'energia. La puoi trasmettere, questa. Sai cosa, Carlo, Dario? Quando io parlo agli atleti, non mi permetterei mai di comunicare qualcosa che non è vero per me, perché non avrei l'energia per poter entrare dentro alla persona. quando io dico le cose con i miei limiti, so che quelle cose che posso trasmettere, pensieri, emozioni, esperienze, entrano perché sono reali. E allora in certi casi tu trovi l'atleta che è predisposto per una storia propria e la puoi allenare, e sì che si può allenare, si può aiutare la persona, diciamo, da potenziale agnello a farlo diventare un potenziale leone. Noi tutti abbiamo queste risorse. Però a me viene in mente ad esempio Donnarumma crocifisso dallo stadio intero, e io dico, ma mettere quella roba lì sulle spalle di un ragazzo di 18 anni quando ne avrà 28 sarà diverso? Oppure è uno magari che gli scappa la lacrima, che gli scappa la crisi di pianto, che non è come Ibra, che invece venite qui che vi faccio vedere io, entra nello spogliatoio della Juventus, no, dell'Ajax, a 20 anni, ciao sono Zlatan, voi che cazzo siete? A quelli dell'Ajax, hai capito? Sbruffoneria, se vogliamo, oltre ogni limite, però io che ascolto Stefano ed è una dote, probabilmente naturale. Sì, poi forse questo, quello che sto dicendo forse non è tutto corretto, ma è un pensiero che da qualche tempo ho in testa. Ci sono stati degli anni, parlo di lustri addietro, in cui la vita per un certo verso era un po' più difficile e ci si è allenati maggiormente a livello di carattere. Le nuove generazioni, non ne faccio una critica, ma hanno tanta più bambagia intorno. È molto più difficile tirar fuori da questi ragazzi il concetto di grinta, perché non ne hanno. Sì, anche perché non generalizzo, perché so che ci sono poi persone contesti che sono diventati in generale un po' meno allenanti. A me viene in mente, oggi stiamo facendo un pippone, adesso no, ma è bellissimo, cioè, per dire, io credo che molti, senso, si ritrovino. A te ti lasciano davanti a scuola quando avevi 6 anni e sta lì, aspetta che ti aprono il cancello. Proprio così, infatti. Oppure l'università era molto più allenante perché non c'erano esami magari più corposi che ti abituavano proprio a sopportare un peso e richiedevano uno sforzo maggiore. Oggi magari è il gradino da fare un pochino più basso, anche se più complesso. E poi quando mi dicono ma andavi a scuola solo a 5 anni erano altri tempi. Sì, anni 70, come dice Stefano Tirelli, non esattamente a Monaco Monte Carlo, erano altri tempi. Tempi non necessariamente migliori. E nessuno li scambierebbe con questi. Esatto. Senti Stefano, torniamo un attimo su quella come cosa dell'ironia. Che mi ha parecchio stuzzicato, cioè perché fa paio con la leggerezza, no? Insomma, riuscire un pochino a rendere un tronco da caricarsi sulle spalle, cavo, insomma, no? Cioè, anche per l'atleta che va a affrontare un grande impegno, fargli vedere l'aspetto leggero di e diciamo subito, credo siamo d'accordo tutti che in quei momenti il conto in banca non ti risolve nessun problema, eh? No, il fatto no, che certo, come si dice al bar, ma quello guadagna 6 milioni, la demagogia spiccia, quello proprio niente. Però ecco, quella è anche una qualità che qualcuno c'ha di natura, ma che invece è allenabile, no? Si può migliorare. Sì, l'ironia non è spensieratezza. La spensieratezza è, se posso permettermi, è dell'uomo comune. L'ironia è dell'uomo molto intelligente. È la capacità di trasformare un elemento reale potenzialmente dannoso in una sorta di caricatura, diminuendone la pericolosità. Cioè, è una dote naturale, l'ironia non è per tutti. E non vuol dire sminuire, non vuol dire denigrare, non vuol dire pensare che non esista il problema, ma veramente avere la capacità di carpirne la pericolosità e trasformarle. Un po' come un allenamento che si può fare è questo: se io ho di fronte a me un atleta che ha paura di fallire in una determinata gara, un top match, qualsiasi altro situazione massimale, io la prima visualizzazione che tendo a fargli fare è della massima catastrofe, tutto ciò che di negativo può succedergli, ma ridendo di questo, cioè è esorcizzare ciò di cui tu hai paura. È inutile scapparne. Tu hai una paura, scappi, continuerà ad esserci, l'affronti, ma in che modo? Non petto a petto, perché non ce la fai, la vivi, la esasperi, la esalti ridendoci sopra. Questa è una tecnica. che io suggerirei magari a chi in questo momento, oggi no perché è Natale, beh, però oggi non ci sono ansie, diciamo dal 7 di gennaio in poi. No, no, bravo, questo è interessantissimo e vale non solo per lo sport o per i giocatori, ma vale per tutti quanti. Cioè, immaginiamoci in un ufficio, no? C'è l'impiegata che ha paura del capo ufficio. Immaginatelo che ti tira una pentola addosso, che ti crolla la sedia, che ti si rompe il tavolo mentre lui sta per arrivare. Fai di tutto e di più e ridi, fatti una sana risata. Tanto al massimo che succede, infatti, come quando vai a fare gli esami, sei lì che all'università c'hai l'ansia addosso. Passo successivo, seconda visualizzazione, totalmente il contrario. Tutto andrà benissimo, ma benissimo realmente, tutto andrà a perfezione. Cioè distruggi ciò che ti fa paura e inizia a costruire l'elemento positivo da qui in poi. C'è un'altra cosa bella, vi ricordo. Stiamo quasi per chiudere questa puntata, ragazzi. Vi informo il tempo. Caspia, non c'è il recupero come. Recupero, non c'è, chiamiamo il VAR. Chiamiamo il VAR. No, ma io propongo una cosa: torniamo insieme per la puntata di domani, Santo Stefano, e parliamo di altri temi. Tanto siamo qui a pendere dalle labbra del professor Tirelli e ovviamente di Dario Ricci, mio compagno di viaggio in queste puntate in coabitazione, in collaborazione a 4, 6, 8, 10, 20 mani con Olimpia. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia. Torniamo domani.